lui è basso di statura, Nuvolari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore. E finalmente, quando sente il rumore, salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Colore, Nuvolari ha la maschera tagliente, Nuvolari ha la bocca sempre chiusa, di morire non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'alfa rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 107. Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari.